questa mostra proprio qui a Bologna al Mambo, e che un po' racconta la Bologna di 40 anni fa, perlomeno quella Bologna musicale, culturale, eccetera, quei fermenti che c'erano 40 anni fa. Finalmente, diciamo, si celebra anche in una qualche maniera anche il Bologna Rock. In maniera Bologna istituzionale, insomma. Sì, sì, sì, no, beh, ovviamente. Perché di solito ce ne occupavamo solo noi. Sì. No, invece questa volta, per fortuna, abbiamo trovato delle persone aperte, disponibili a portare avanti questo progetto, che non è ovviamente solo legato alla musica o solo a quel periodo lì, perché poi la gente lo vedrà quando chi verrà a vedere la mostra lo capirà, perché ho cercato comunque di fare una proiezione comunque verso il futuro, in ogni modo, il futuro, ecco, della musica, perché non volevo fare una roba solo tra virgolette nostalgica. Che è un po' sempre la tua idea, è da un po' di tempo è la mia idea, sì. Che esplori, diciamo, questo settore. E poi c'è un apparato tecnologico all'interno della mostra molto, diciamo, moderno, perché ci sono una quindicina di contributi in realtà aumentata che non sono subito lì disponibili, però se uno ha un cellulare o un iPad, okay, se li può guardare o ascoltare, perché alcuni sono audio, altri sono video, eccetera eccetera. Quindi è molto ricca di contenuti, c'è qualche ora di video da vedere in giro se uno ne ha voglia. Musica dove si ascolterà in tutti gli angoli di quella mostra oppure no? La musica sarà fondamentalmente quella del Bologna Rock, okay, che va a rotazione dall'inizio, ecco, alla fine, a basso volume, perché comunque l'ambiente non è felicissimo, per cui anche, certo, spararlo alto non ha senso. E poi ci sarà, dopo, per gli altri contributi sono le cuffie, ovviamente. Certo, naturalmente. Si mette ad ascoltare, a sedere, ad ascoltare. È una bella mostra multimediale, come è giusto fare. Sì, perché ormai. Se no, come quella di Bowie, no? Che andava in giro. Vabbè, con tutto il rispetto, credo sia difficile. Stiamo tranquilli. Arrivare a quei livelli. Beh, quella era una cosa internazionale, diciamo, sicuramente dei budget diversi. È stato un nuovo, cioè un nuovo livello proprio. Cioè adesso bisogna superare quella, insomma. Comunque non è male, poi ovviamente noi non abbiamo i mezzi che avevano quelli che hanno fatto la mostra di Bowie, perché il budget era, come potete immaginare, assolutamente ristretto, però va bene, bisognava farla, bene, certo. E quindi il titolo esatto della mostra? Pensatevi liberi. Pensatevi che è in qualche modo un'esortazione a ripensare a quel periodo, alla libertà che noi ci siamo concessi comunque in quel periodo e che vi siete conquistati anche, che bisogna rimettere in moto, insomma, in qualche maniera, con modalità differenti, perché quella roba lì non potrà mai più essere così, però è un'esortazione comunque a ragionare, a provare a mettere delle nuove scintille nel mondo. Mi sembra buono, no? Come esortazione, titolo, sì. Come titolo. Però non diamo per scontato, fra noi tre che sappiamo di cosa stiamo parlando, che lo sappiano tutti. Sì, no. Quindi, perché poi finisce che facciamo così. Si festeggiano anche i 40 anni di cosa esattamente? Allora, sono i 40 anni del Bologna Rock, del concerto. Che è stato? Il 2 aprile del 1979, okay, che è stato questo. Sono passati 40 anni. Sono passati 40 anni. È stato questo concerto organizzato in maniera molto rocambolesca da noi in quel periodo, con 10 gruppi praticamente tutti sconosciuti, a parte gli Schiantos, che avevano già pubblicato il loro primo 45 giri per la Cramps, però insomma non è che erano ancora già diventati quello che sono adesso. E miracolosamente siamo riusciti a portare a Palasport, con il contributo e l'aiuto di giornalisti, di amici vari, eccetera eccetera, ben quasi oltre 6.000 persone. Ah, però, che noi non ci aspettavamo, per cui questo, paganti sì, sì, no, e paganti questo, erano 5.500 rotti, e poi dopo a un certo punto abbiamo fatto entrare tutti perché c'era gente ancora fuori. Succedeva. No, ma all'epoca poi era così, perché sennò avrebbero sfondato, quindi ad aprire la porta. No, infatti poi ormai quello che potevamo fare era solo che noi non eravamo preparati a sostenere un'onda di pubblico così consistente, per cui il nostro servizio d'ordine era veramente ridotto ai minimi termini. Avevamo organizzato e pensato di fare durante la serata tutta una serie di cose che per la quantità di pubblico che c'era non siamo riusciti a fare. Ma è successo qualcosa, no? Beh, no, a un certo punto con gli Schiantos sì. Beh, vabbè. Con gli Schiantos sì, perché un gruppo di fan sfegatati ha cominciato a tirare uova, farina, acqua sul palco, ma qualcuno ha anche cercato di venire a tirar giù il mixer e io per fortuna ero lì e l'ho trattenuto, sono riuscito a trattenerlo per completare la serata, che dopo avrebbe visto ancora l'esibizione di Andy J. Forrest and the Stumblers e dei Carnevada alla fine, ovviamente. Per cui però questo evento, che è stato in qualche maniera molto importante, perché ha consentito a tutti i gruppi da quel momento in poi di cominciare ad andare a suonare fuori Bologna. Ecco, quindi è stato un po' un turning point, come si dice in inglese, no? Sì. Punto di svolta. Un punto di svolta, perché tutti hanno cominciato ad andare a suonare a Firenze, a Sardegna, a Roma, a Milano, eccetera, eccetera. Quindi hanno cominciato ad uscire e a incontrare altri pubblici che non ne fossero solo quelli dei suoi amici, dei loro amici qua a Bologna. Quindi quello è stato un momento molto importante. E ha dato comunque anche un pochino la consapevolezza ad alcuni che potevano provare a vivere di musica, che non era, fino a quel momento, non era proprio così, no? E poi ha dato anche, secondo me, la visibilità a Bologna a livello nazionale ad un certo punto, perché se ne è parlato, insomma, di questa cosa. Se ne è parlato tanto e Bologna un po' è diventata... Cioè, è stata consacrata, non è diventata, come città della musica per eccellenza, città alternativa, creativa, delle arti in generale. Io ho dei vuoti di memoria, però nel tuo, diciamo, programma, progetto, citavi una persona che diceva che la musica New York, Bologna, Barcellona, insomma... San Francisco, New York, Bologna, le città libere del mondo. Sì, sì. Chi era questo? No, questo era un flyer che girava per New York con questa, diciamo, definizione, e che poi anche altre persone dopo... in qualche maniera hanno continuato a raccontare, a dire. E cioè, San Francisco, New York, Berlino, Barcellona, Bologna, no? San Francisco, New York, Bologna. Basta, cioè Berlino no. Berlino no, Londra, chi se ne frega. Era New York, per cui fine. Però appunto questa cosa comunque ha continuato a girare. Ma la cosa buffa è che quella situazione lì ha fatto sì che poi a Bologna veramente fossero arrivati dagli Stati Uniti, da New York e anche dalla California un mucchio di musicisti, personalità, persone che si sono fermate a vivere qui per un po'. Ne dico uno che non c'entra niente con la musica, Basquiat. Ha girato qua per Bologna per un po' di tempo e ha fatto anche dei graffiti da qualche parte che io non sono riuscito a rintracciare, però no, forse ma qualche comitato li avrà cancellati, sicuramente li avrà cancellati, appoggiati dal Carlino ma anche Keith Haring, che ne aveva fatto uno nel da Ore a Maglià. Sì, certo. Comunque questi poi sono tutti dettagli, ovviamente, però era per raccontare che raccontare il tipo di fermento che c'era a Bologna, cioè, in quel periodo. Chi non ne ha idea, mi sembra che non siano dettagli del tutto irrilevanti. Musicalmente parlando, Arthur Lindsay, che era venuto qua a suonare con i DNA per Elektra 1, ha prodotto il disco degli Hi-Fi Bros, il primo disco degli Hi-Fi Bros. I Tuxedo Moon, che anche loro si sono fermati qua un po' di tempo, hanno prodotto il disco dei Central Unit e hanno girato per la città, sono stati qui un po' perché erano stati attirati da questa situazione che si era creata qua. Pensiamo anche alla Base Record, che aveva New Order, tutto un fermento di cui ancora Bologna, secondo me, vive di riflesso, perché molti vengono a Bologna, anche qui in Italia, molti ragazzi, pensando che più o meno ci sia ancora quella situazione di 40 anni fa. Diciamo che i giovani vengono a studiarla. Infatti una delle cose più interessanti che sono successe in quest'ultimo periodo è che c'è una attenzione da parte dell'estero, di chi fa delle tesi per dottorati di ricerca, su quel periodo di Bologna, e vengono qua a studiarlo, per cui adesso io sono in contatto con due persone che stanno facendo, uno a Parigi e uno a Birmingham, stanno facendo una tesi su quel periodo di Bologna. È una delle cose più interessanti che potrebbe succedere, che perlomeno forse a Birmingham portiamo la mostra, quindi Questo sì. È ovviamente adesso c'è internet, ci sono tutta un'altra serie di cose, diventa molto più facile. All'epoca c'erano solo le cartoline postali. Esatto. Intanto in sottofondo abbiamo l'esibizione degli Schiantos al Bologna Rock, che alla fine non hanno suonato, ma bensì hanno preparato gli spaghetti, poi è andata malissimo da un punto di vista della reazione del pubblico. Ma non era quello, non è importante. Sì, beh, era giusto così per documentare un momento. Questi questa era un po', diciamo, un'atmosfera classica dei primi concerti degli Schiantos, che forse al Bologna Rock si è anche amplificata, no? Per certi aspetti, perché quando ci sono 6.000 persone, un conto quando ce n'è 300 che fanno i cretini, ma 6.000 diventa insostenibile. Comunque, in questa onda che la mostra si sta prima di iniziare portando dietro, tu hai anche fatto una ristampa, fatto uscire un disco dei Wind Open. Sì, anche quello dei Nafta. E quello dei Nafta, di cui poi uno di questi giorni veremo a parlare le gesta. Esatto. Sì, no, e poi durante la mostra dico sempre tra le virgolette, sperando che ci riusciamo, però dovremmo anche stampare per la prima volta in vinile il disco del concerto del Bologna Rock, sì, che sarà un triplo perché sarà un triplo, nel senso che sono due dischi del concerto vero e proprio. Poi ho ritrovato, ravanando negli archivi, ho ritrovato un nastro promozionale che noi facemmo allora per promuovere il concerto, che avevamo mandato a tutte le radio, che l'abbiamo sentito nel trentennale, dove ci sono brevi spezzoni musicali dei vari gruppi con interventi invece parlati di fricantoni, dei vari musicisti, cioè in particolare di vari musicisti che poi avrebbero suonato al Bologna Rock. Quindi questo lo metteremo come bonus nel disco. Ma interessante. Ma la notizia più silenzio più interessante da questo punto di vista è che finalmente dovremmo ripubblicare in vinile Six Soundtrack di Gerd Wada, che è una cosa che molti aspettano da tempo, che non è mai stata fatta, che avrà un miglioramento, spero, consistente nella qualità sonora, perché quando lo facciamo... Che non è la cassetta, però. No, il primo disco, il primo vinile, Six Soundtrack, che era il primo vinile. Sì, la cassetta è stata ristampata in CD con un libretto che racconta un po' la storia dei Gerd Wada, quella c'è già, non c'è problema. No, ma parlavo proprio di Six Soundtrack, che è uscito in CD, ma ristampato in vinile ancora no. Ancora no. Perché ci sarà un buon lavoro, spero, di remix, perché allora la nostra batteria era un po' piccolina, quindi con i mezzi di allora riuscimmo ad arrangiare il disco in qualche modo. Adesso con i mezzi che ci sono si può migliorare molto il suono della batteria, per cui vediamo se ne riusciamo a fare una cosa ancora più interessante di quella che è uscita allora. Per cui, però finora era bloccata questa cosa, adesso finalmente pare che si sia sbloccata, e quindi insomma, ci sarà anche questa cosa importante. No, c'era anche questa Bologna intervista. Cosa significa per voi questo Bologna Rock? Nel senso che se vi sentite... Questo è diverso 40 anni fa, lo so. Questa situazione è un po' basso. In che parte pensate di aver avuto in tutto questo sviluppo che è Rock a Bologna? Questa è la risposta invece. Dunque, ma è una domanda impegnativa questa qua, che non lascia molto spazio, perché la risposta è una: gli Schiantos sono il numero uno, su questo non ci piove. Ecco, quindi questa è l'atmosfera, insomma, e sarà una di quelle del promo sarà nel disco. Sì, sì. Quindi ve l'abbiamo dato in anteprima, se l'avete registrata, rimasterizzata e fate nei cassetti da vendere in piazzola, che non si vendono più. Le cassette in piazzola, dai. Beh, era così per ricordare, 40 anni fa, certo. Forse in piazzola c'erano ancora le cassette, quelle pirata, ecco. Sì, e del resto poi tutta la prima produzione dell'Harpo's Bazaar era in cassetta. Ah, beh, certo. Quindi, e questo viene appunto, questo che abbiamo sentito, viene da quella cassetta promozionale che fu distribuita alle radio per promuovere il Bologna Rock, e c'era anche l'intervento di quello dei Nafta, che era molto di Cigaro, che era un uomo, entra nel caffè, faceva dei ragionamenti un po' bizzarri, però lui è ancora così oggi, quindi questo sarà il bonus del concerto su vinile. Sì. Beh, giusto che tiri fuori un po' di cose che sono rimaste nei cassetti, anche perché poi quella cassetta lì non ha avuto una diffusione pubblica, era riservata agli emittenti, sì. E quindi è giusto. Sì, sì, era stata fatta solo per le radio, per promuovere l'evento e basta. 6 mesi dopo il Bologna Rock, grazie a quello che era successo al Bologna Rock, a Milano organizzano Rock Metropoli al Palalido. A Bologna vennero i Chaos Rock, Gianni Mucciace e altri musicisti della zona milanese, del centro sociale Santa Marta, e tornando a Milano decisero di provare a fare anche loro una cosa analoga e fecero questo Rock Metropoli al Palalido. 10.000 persone. Beh, le dimensioni, beh, giusto, infatti, sì, 10.000 persone, e dei nostri gruppi che avevano suonato a Bologna Rock c'erano Wind Open, Gas Nevada e Schiantos. Ovviamente gli Schiantos erano già Cramps. E Gianni Sassi aveva cominciato a ideare la collana Rock 80, che poi realizzerà anche con il disco di questo disco di questo Wind, disco Open, qua, esatto. Di Wind Open, e quello comunque ha contribuito molto a far crescere tutta la scena di quegli anni lì in Italia, a livello nazionale ovviamente, perché c'era una casa discografica come la Cramps che investiva, già conosciuta, casa discografica degli Aria, di Finardi, eccetera eccetera eccetera. Noi non eravamo ancora diventati ma lo saremmo diventati di lì a poco con la distribuzione della Ricordi, e quindi abbiamo creato quella situazione che è stata, e tutto questo nasce dal Bologna Rock, dal Bologna Rock, e quindi era giusto assolutamente ricordarlo. E ci saranno eventi collaterali durante questa mostra? Sì, sì, sicuramente ci saranno eventi collaterali, non abbiamo ancora un calendario definito, per cui lo comunicheremo sui social man mano che verranno attivati, però sicuramente faremo alcuni incontri al Mambo, sempre giocando su questa prospettiva del futuro, ma non solo della musica, anche dei video e anche del comics, perché interverranno Igor, Red Ronnie, verranno a fare un incontro su questi temi. Io ne farò uno ovviamente sul futuro sulla musica del futuro, scusate, non sul futuro della musica, che è il pallino di esatto, che sarà il primo che faremo. e poi adesso vediamo se ne vengono fuori altri 2 o 3. Faremo probabilmente, io farò qualche visita guidata insomma fisseremo 2 o 3 date in cui, e questo è interessante per ragazzi che state ascoltando, quello che ascoltate adesso è solo la punta dell'iceberg, voi non avete idea di quante cose ha da raccontare Oderzo Lubini. Ma del resto poi intanto lo chiamiamo qua e questi racconti ce li ha fatti e ce li farà ancora. C'è Stress che scrive: Oderzo, se può interessare, il primo video autoprodotto in Italia degli Spaghetto. Fammi sapere per eventuali accordi. Ecco, vedi che poi nasce la rete così. No, ma tutto questo è interessante e importante, perché può comunque diventare, deve diventare materiale di documentazione disponibile per la città, per tutti. Quindi è roba che ormai ovviamente è stata fatta tanti anni fa, ma tutto quello che riusciamo a mettere insieme, secondo me, deve finire comunque poi in un archivio di qualche tipo che rimane a disposizione. Certo. Io anch'io spero che tutte le videocassette che tu hai dato siano, sono ancora lì. Volevi, sei andato a vendere un mercatino? No, guarda, il problema è che avevamo mandato a riversare le cassette in un posto dove l'avrebbero fatto in maniera degna. Sono ancora là. Io sto chiedendo sto chiedendo che le riportino indietro, ma ancora non c'è. Ancora non hanno riversato e non riversano. No, no, riversare credo che abbiano riversato, però devono rimandare dietro il materiale. Poi ti aggiornerò. Però oltre a questo ci sarà. Ma questo lo dico anche per stress, perché certo. Lo stress, il nome può venire con questi tempi, insomma. Poi ci sarà anche qualche concerto, anche questi non sono ancora definiti come date, però sicuramente 2 cose ci saranno. La prima è il gruppo di Guglielmo Pagnozzi di Afrobeat, che rifarà tutto Monotono degli Schiantos. Che sono quelle cose che vanno adesso, no? No, beh, questa è una versione roba, reggae. In versione Afrobeat. Afrobeat, insomma, sì. E, no, in realtà anche questa era una cosa che avevamo già in animo di fare un po' di tempo fa, ma poi, come sempre, le cose non si riescono a concretizzare. Adesso è venuto il momento di farlo. E poi ci sarà, verso la fine della mostra, ci sarà questo concerto del Confusional Quartet al San Leonardo, dove Demetrio Stratos ha registrato il suo ultimo concerto prima di andare purtroppo per lui a morire a New York. Io lo vidi quel concerto. Il telefono, ma del resto sei il curatore voce della mostra, è qua presente, non può rispondere. E la voce di Demetrio che Confusion usano nel loro disco è quella registrata in quell'occasione al San Leonardo. Quindi ho voluto creare questa. Poi ce ne saranno anche ancora altri due o tre, però questi ancora. Mi ricordo di quell'esibizione, la canzone Oh che bel castello, ma con diron di rondello, cantata alla rovescia. Non so se. Quindi veniva registrato, tu dici ma cos'è sta roba? Poi quando facevano andare il nastro alla rovescia, ancora perché sì, era stato. E si sentiva, e questo diceva che era un esercizio che potevamo fare tutti a casa. Sì, esatto, come no? Esatto. Proprio al di là così del Revox con queste caratteristiche, ma quello sarebbe il meno, perché poi ci sono le aspirazioni da invertire, cioè veramente era uno studio sulla voce incredibile. E poi c'è un'altra particolarità di cui parlavamo prima, è il giorno dell'inaugurazione della mostra, che ricordo è giovedì 16 maggio. Chi sarà ospite? Allora, abbiamo conosciuto un DJ giapponese che vive a Parigi e che abitualmente nei suoi DJ set suonano i nostri dischi in vinile, rigorosamente in vinile. Lui è appassionato di quel periodo lì, ha conosciuto, ha vissuto un po' di tempo in Italia, per cui ha conosciuto tutte queste cose, e allora, visto che era così appassionato, ho pensato di invitarlo a fare un DJ set qua la sera dell'inaugurazione, ma ne farà una parte lì e poi dopo ci trasferiamo a Gallery 16, sì, dove farà un altro set in via Nazario Sauro. Gallery 16 tra l'altro è uno dei partner nostri, perché all'interno di Gallery 16 faremo tre piccole mostre che estendono la cosa, che i documenti che ci sono al Mambo, perché al Mambo tutto l'ambiente che abbiamo non è grandissimo, per cui non potevamo mettere tutto, allora abbiamo pensato di fare queste collaterali. E quindi insomma il DJ set sarà così, però inizia al Mambo, voglio dire. Ma prima al Mambo e poi dopo ci trasferiamo per la serata tarda al Gallery 16. Quindi inizia il 16 maggio e termina 29 settembre. Quindi una mostra, come sentite, che è poi di respiro internazionale, nel senso che addirittura i giapponesi, vabbè che i giapponesi sono sempre stati interessati alle nostre musiche, ma addirittura anche in Inghilterra potrebbe trasferirsi, visto che là c'è qualcuno che presenta delle tesi di laurea che parlano di Bologna Rock. Quindi diciamo la cosa non, perché sai, il Bologna Rock all'epoca sembrava una cosa un po' più da provinciali, no? Certo. Ma poi invece alla fine gli effetti sono stati molto diversi. Poi quando le vivi le cose non è che ti rendi sempre, anche quasi mai, pienamente conto di quello che stai combinando in quel momento lì. Poi lo sappiamo tutti, noi in quel periodo lì fondamentalmente ci divertivamo un casino, punto. Poi quello che sarebbe posso successo dopo. Posso raccontare una cosa che hanno detto i Wind Open sabato scorso a Gallery 16, appunto quando si parlava del loro vinile, e loro sono stati contattati da Arbore per andare all'altra domenica, alla famosa trasmissione che faceva Arbore, che ha fatto scoprire a tanti tante cose, e una volta ci sono andati gli Schiantos, è vero, ma sono stati loro a dire che giusto, erano gli Schiantos, e quando Arbore li ha richiamati, gli Schiantos hanno detto ma cosa vuole questo? Non c'è problema, come poi è successo a tanti altri che hanno vissuto e lavorato a Bologna, tra tutte le partecipazioni mancate a Sanremo o non volute a Sanremo per snobismo, no? Innumerevoli, certo. Quindi no, questo per dare un'idea appunto in più di com'era quel tu hai detto, noi ci divertivamo un casino, in effetti suppongo che sia così. Ma anche perché per esempio anche a livello di documentazione allora, poi adesso ovviamente è diverso, ma allora noi non è che avevamo il pallino del documentare tutto, qualunque cosa, ma non era così facile come adesso e comunque appunto poi per fortuna che c'era Godo. pazza. Sì, esatto. E invece aveva già capito tutto. Qualcuno ci salva sempre. Qualcuno ci salva sempre. Comunque è un appello che possiamo di nuovo lanciare. Chi ha del materiale o della documentazione di quegli anni, che è interessato a farsi il caso di condividerlo con il resto della comunità. Comunque tra i materiali che ho trovato assolutamente inediti c'è un ci sono 12 minuti dei Carnevada all'Odissea 2001 di Milano. Uh-huh. Strepitosi. Strepitosi, mai visti proprio. L'Odissea 2001 era un locale dove si facevano spesso dei concerti. Non so il se, locale se di Milano, ancora. No. Era il locale di Milano dove sono passati più o meno tutti i gruppi rock che andavano a suonare a Milano. Quindi... Sì, ma anche quelli internazionali. Io andavo a vedere i Plasmatics di Wendy Williams. Ma è esistito per un bel po' di tempo, comunque, ha avuto una vita abbastanza lunga. Poi ha avuto un po' di questioni legali legate ad altre vicende, ma insomma comunque al proprietario comunque in mostra ovviamente ci sarà possibile per esempio vedere Crollo Nervoso dei Magazzini Criminali che parteciparono a Elettra 1. Noi facciamo un disco su questo spettacolo dei Magazzini Criminali, le musiche erano quasi tutte abbastanza vicine a quelle di Brian Eno, anzi alcuni campioni erano proprio di Brian Eno. Però loro fecero questo spettacolo teatrale che era una specie di opera rock teatrale in qualche maniera. Certo. E ci sarà tutto il loro spettacolo visibile in uno dei monitor. Poi ci sarà il treno di John Cage, che è stato uno degli altri elementi determinanti di tutta quella situazione, perché lo dico solo per inciso, è stato grazie al treno che io ho dato a Gianni Sassi la cassetta degli Schiantos che poi ha portato loro a... diciamo il treno serve non treno, l'hai perso quella volta servito quel treno è servito molto, quasi come il Bologna Rock in qualche modo, quindi... Beh, poi c'era da dire che il conservatorio aveva aperto il primo corso di musica elettronica, c'era il Bologna Rock, forse era un po' la punta dell'iceberg di quello che stava succedendo in città, e questa mostra secondo me rimette un po' tutte le cose a posto, in ordine, e soprattutto documenta quello che è stato Bologna 40 anni fa. Sì, documenta quello che è stato, cerca di dare, come dicevamo prima, un qualche accenno al possibile futuro della musica, alla musica del futuro, e in ingresso della mostra ci sarà un'altra cosa molto carina, un dialogo immaginario tra Umberto Eco e Fricantoni. Immaginario, scritto da Gianluca Morozzi. Ah. In realtà era, ma validato comunque da Roberto Grandi, quindi che era. Okay. Quindi no, abbiamo cercato di fare le cose per bene. Che era una idea che avevamo già qualche anno fa, prima ancora che i due ci lasciassero, ovviamente, che però per ovvi motivi non abbiamo potuto fare. Allora, pensando alla mostra, detto, ma perché non proviamo a scrivercela noi, ovviamente facendo dei riferimenti molto precisi alle opere sia di Frick che di Umberto Eco, però molto carino, divertente, e l'ho fatta leggere e recitare ai gemelli Ruggeri, quindi giusto per completare il quadro. Beh, comunque se facevano sempre parte di quella scena, ma c'era il Gran Pavese, ragazzi, in via del Pratello. Ce lo dobbiamo mica dimenticare. È una mostra molto bolognese, giustamente. Sì. Cioè, ogni tanto bisogna anche autocelebrarsi, non sempre, ma ogni tanto. Sì, però molto bolognese, però che cerca di dare uno sguardo anche fuori. No, certo. Collegamento esterno è chiaro sotto tutti i punti di vista, però è giusto mettere in risalto determinate aree creative. Le peculiarità di quel periodo lì noi ne avevamo tante, perché devo ricordare anche la Galleria Neon, ragazzi. Ce la vogliamo dimenticare? No, non ce la vogliamo assolutamente dimenticare. Tutto il lavoro fatto dai Grabinski, video da Renato De Maria, ci sono talmente tante cose che meritano di essere in qualche maniera riviste, e anche se sono di bassa qualità, ovviamente, perché i video sono fatti di quegli anni sono tutti di bassissima qualità, ma non ha importanza, che comunicano comunque un mucchio di roba bella.